Salve ragazzi, buona domenica. Questo sarà un episodio extra, non in programma, brevissimo del mio podcast per chiarire qualche dubbio, qualche perplessità. E soprattutto è la terza volta che tento di registrarlo perché è passato nell'ordine prima l'arrotino che non passava, penso, dal 1912 e poi lo stracciarolo con i megafoni spianati e quindi ho dovuto interrompere. E è abbastanza frustrante, devo farmi uno studio di registrazione insonorizzato, però. E per iniziare devo dirvi una cosa, la settimana prossima per motivi familiari non sarò a Roma lunedì nell'interezza della giornata, quindi potrei non vedere la puntata e per sicurezza butterò a mare il telefono per non ricevere spoiler. Probabilmente il mio podcast per quei 4-5, anzi dopo dovrò fare dei ringraziamenti che lo ascolteranno, uscirà martedì, forse mercoledì, a causa della velocità bassissima del mio upload. E riprendendo appunto l'input che mi sono dato da solo, un ringraziamento a tutte le persone che dal vivo, telefonicamente, su Skype, su Discord, hanno voluto parlare con me di questi podcast, l'hanno ascoltati davvero, quindi è molto lusinghiero. Capisco i creatori di contenuti che si trovano a confrontarsi con migliaia di messaggi giornalieri, adesso un pochino li capisco, anzi io dirò, preferisco appunto parlare con amici come con Mark, Luca, Daniele, Jody, Valerio, Valeri, appunto di queste cose, e condividere con loro le mie opinioni, le mie conoscenze letterario-cinematografiche e anche se sono un po' influenzate dai miei gusti, anche questo fa parte, diciamo, del taglio descrittivo che viene dato dall'autore, no? È la mia autorialità, quella di dire certe cose, avere il mio gusto anche un po' troppo selettivo, però posso essere confermato o smentito, su tante cose sono stato confermato, mi sono state dette anche delle cose, degli spunti di interessione, degli spunti di riflessione interessati, di interessione. Vabbè. Allora, oggi vorrei parlare di qualche perplessità, di qualche dubbio, di qualche nuova informazione che è giunta al mio orecchio in queste settimane, anche al mio occhio, visto che le ho lette su internet, e ci sono delle ennesime prove, insomma, della natura canide degli sceneggiatori che pestano randomicamente sulla tastiera facendo uscire parole a caso. E purtroppo, al di là delle metafore offensive, comunque la qualità della scrittura è molto calata e molto bassa. Io avevo già detto che comunque Tyrion era un personaggio estremamente complesso e pieno di sfaccettature tragicomiche, adesso è diventato anche egli meno intuitivo e molto più veramente comico e poco interessante, per dire, comunque Tyrion era l'incarnazione della dialettica, di quell'intelligenza acuta che comunque è difficile, era difficile da credere in un personaggio così esteticamente. Nel libro è molto più brutto, li sto rileggendo, però è proprio, come dissi l'altra volta, il concetto di stravolgere l'archetipo, l'archetipo del bello, bravo, intelligente. Qui Tyrion è basso, brutto, antipatico e puttaniere, e in realtà è una persona estremamente acuta e intelligente, no? Quindi Martin ce l'ha questo modus operandi. Comunque, la prima cosa, il primo sintomo di scrittura approssimativa è il cognome di Gendry. Gendry viene chiamato Gendry Rivers. Dovete sapere che nei libri, anche nella serie che ha ripreso fedelmente questo aspetto nelle passate stagioni, i cognomi dati ai bastardi, cioè, fate attenzione, ai figli illegittimi dei nobili, riconosciuti dal nobile, i cognomi sono stabiliti a seconda della zona per editto reale, quindi al nord è Snow, al sud è Sand, nella zona appunto di Capotempesta è Rivers e a Prato del Re è Waters. E Gendry sarà Lord di Capotempesta, ma lui è nato e cresciuto ad A Prato del Re. Il cognome non dovrebbe essere stato Rivers, ma Waters. Ma c'è un problema di fondo: come vi ho anticipato, Robert Baratheon non sapeva nemmeno dell'esistenza di Gendry, non è mai stato riconosciuto da Robert Baratheon, quindi lui doveva essere solamente Gendry. Quindi, prima inesattezza, primo forse fanservice, prima semplificazione abbastanza approssimativa. Che è una cosa, tra virgolette, perdonabile, però nel senso, se la, beh, perdonabile fino a un certo punto, perché sono stati fedeli a un certo tipo di accuratezza nei dettagli per tante stagioni e poi sono crollati verticalmente perché devono chiudere in fretta tutte le trame possibili e immaginabili. Quindi, secondo me questo è proprio sintomatico della fretta e dell'approssimazione con cui queste persone stanno smembrando la serie. Seconda cosa, la profezia di Varys, la profezia su Varys fatta da Melisandre, che gli predice la propria morte e Melisandre predice anche la sua morte. Quindi, fondamentalmente, Varys morirà sicuro al 100%, e visti i presupposti che sono stati messi nella puntata precedente, il seme del dubbio instillato in Tyrion di un eventuale, diciamo, tradimento di Varys, io posso soltanto presumere che Varys verrà assassinato o da Daenerys, consapevole della sua intenzione di tradirla in favore di Jon, o da Tyrion per impedire che Daenerys si sporchi le mani, perché Tyrion è stato molto apatico in questo inizio di stagione, o da Jon perché non vuole essere investito di questo ruolo e si vede costretto ad uccidere Varys appunto per sedare un'eventuale rivolta, o da Verme Grigio, che dopo la perdita di Missandei potrebbe anche lui essere diventato molto più cinico e spietato, no? Gli Immacolati erano delle macchine da guerra in passato, forse ha dimenticato quella sua natura, essendo morta Missandei, ha dimenticato la sua natura, diciamo, più compassionevole per abbracciare lo stile guerresco tipico della sua, diciamo, della sua organizzazione, no? La terza cosa che voglio dirvi riguarda una mia riflessione su Euron Greyjoy, che è stata ulteriormente approfondita parlando con due dei miei amici, e ci sono delle cose che io avevo pensato ma non avevo detto perché mi sembravano implicite, adesso le esplicito. Cioè, la prima cosa è: Euron Greyjoy fa l'imboscata a Daenerys e alle sue navi davanti a Roccia del Drago, e la domanda è: come faceva a sapere Euron che loro sarebbero tornati lì? Come faceva? È impossibile, d'accordo? E oltre il come c'è il dove. Come sapeva dove mettersi, quale rotta avrebbero preso loro per non farsi vedere? E poi quando? D'accordo? Cioè, da quanto tempo stava lì? Cioè, tu come fai a sapere che la nave arriverà quel giorno a tot minuto o a tot tempo? E non dite qualche informatore, perché tutta la zona superiore, l'Arryn, dove c'era Nido dell'Aquila, eccetera, la zona di Arryn, è tutta zona fedele agli Stark. E nessuno ha visto niente. E poi la cosa più importante, Daenerys cavalca un drago. Dall'alto, non c'è insenatura che tenga, tu le vedi le navi dall'alto. A qualsiasi insenatura, a qualsiasi... Poi 200 navi con le insegne del Kraken, come fai a non vederle? Ditemi se questa è una scrittura televisiva, ditemi se è scrittura televisiva. Questi sono cefalopodi, proprio, sottoacidi, che scrivono a caso sulla tastiera, perché questa, ragazzi, questa è una porcata immonda. E io mi incazzo, scusate il termine volgare, perché questa roba, non solo è fanservice, perché c'è l'inquadratura di Euron a gambe divaricate, con le braccia incrociate dietro la testa, se gli mancava soltanto il Daikiri in mano che sparava con la balista, quella è una schifezza disumana, è una roba che neanche da videogioco anni 90, neanche da parodia di videogioco, neanche da Far Cry Blood Dragon, che era tipicamente un intento, diciamo, di parodia di film action degli anni 80-90, neanche lì trovi una cagata del genere. È una roba veramente patetica, come è patetico il personaggio. Quindi, a dir poco ingiustificabile. Poi, a prescindere da questo, vedo gente che dice: ah no, c'è questa teoria e questa intenzione da parte degli sceneggiatori di perseverare nel far credere che Daenerys sia pazza dopo che è stata praticamente venduta come una schiava da puntata 1 a Khal Drogo col fratello, che gli diceva che se per ottenere il trono avrebbe dovuto farla, diciamo, accoppiare con tutto il Khalasar e i cavalli, l'avrebbe fatto. Cioè, una persona che è cresciuta così, devastata per tutta la stagione, è pazza se si arrabbia se gli ammazza una consigliera innocente. Ricordiamo, come dissi l'altra volta, Missandei è la voce del popolo, l'incarnazione dell'innocenza, lei dice Dracarys, però Daenerys è pazza se dopo tutte le vessazioni che ha subito, i tradimenti, i tentati omicidi per tutta la vita, vuole giustamente uccidere la tiranna, l'assassina, quella che ha fatto saltare con l'altofuoco, che era sparito da tutta Westeros, ma Deus Ex Machina è riuscito, l'altofuoco ha fatto saltare non solo l'altopassero con tutta la corte, ma anche i Tyrell, convenientemente l'ha fatti saltare tutti, va bene, d'accordo? Cioè, quindi, io so benissimo dove andranno a parare gli sceneggiatori, e sarà nel volerci propinare questa spiegazione della Mad Queen, ma Daenerys è l'unica sana di mente in mezzo a quella cozzaglia di personaggi senza nessun tipo di intelligenza, di acume, di personalità, di scopo, di mentalità, non dico realistica, però neanche cinica, pragmatica, veramente Qui parliamo proprio di coerenza, di intelligenza, di neuroni che cozzano, perché cioè tutto quello che dice e fa Daenerys è la diretta conseguenza di una scelta. Lei, ricordiamo, la liberatrice di schiavi, colei che infrange le catene, eccetera, eccetera. È un personaggio positivo che può piacere o non piacere, ma il suo scopo, diciamo, chiamiamolo politico, è molto chiaro, molto evidente e molto condivisibile, no? E adesso no, la devono far passare per la Mad Queen, perché Jon, che nei libri in teoria è morto, adesso deve diventare l'antagonista sul trono. E questa cosa a me, ripeto, fa sempre riflettere sul ruolo anche che poi su Jon io non so se ridere o piangere per il lavoro veramente becero degli sceneggiatori che vogliono imboccarci con questa trama molto forzata e molto poco credibile, cioè che Daenerys è la Mad Queen e Jon, che il suo scopo, la sua raison d'être per tutta la serie in precedenza era quella di avvisare della presenza appunto del Re della Notte e dei non morti e combatterli. Non sto neanche a dirvi, è una cosa che mi ha dato fastidio perché dalla prima pagina del libro praticamente i non morti sono armati con queste spade traslucide, sono sparite, eccetera. Vabbè, lasciamo stare, sennò impazzisco. Jon, che non solo in puntata dice io non sono Stark, sebbene è figlio di Lyanna Stark, quindi è comunque 50% Stark, ma è un Targaryen. Cioè, se il problema è Daenerys è matta come il nonno perché è una Targaryen, anche Jon è matto perché è Targaryen, e Jon si è comportato molto più da matto che da Daenerys. Nella battaglia dei bastardi, quando Rickon viene trafitto dalle frecce, Jon carica a testa bassa contro l'esercito, ok? Una mossa da completo imbecille. Nella puntata della battaglia, anche questa tremenda, nella 8x03, il Re della Notte rialza tutti i caduti sul campo di battaglia e Jon lo carica a testa bassa. Allora, Sansa, che fino a pochi minuti prima etichettava Jon come non in grado di regnare, una persona non dotata di acume, adesso improvvisamente è la sua sostenitrice numero uno e lo vuole sul trono. Quindi ditemi voi, lo spettatore con un minimo di coscienza critica, con un minimo di raziocinio, in che modo deve rapportarsi a questo tipo di veramente di nevrotica, di sociopatica, di psicopatica scrittura. È una cosa veramente che non è difficile proprio a liberare questa matassa, perché dicono una cosa e subito dopo il contrario, fanno una cosa ma la smentiscono, tutte le trame vengono frettolosamente chiuse e tu spettatore l'unica opzione che ti rimane è accettare passivamente tutta la sporcizia che ti viene lanciata addosso come delle scimmie, che lo dissi l'altra volta, che si lanciano le feci. Tu devi stare lì e ricevere questo materiale di scadentissima qualità e dire che la serie è bella, perché sennò la gente dice che sei un hater. Questa è la sostanza di chi difende la serie di questa ottava stagione, perché non è un attacco a prioristico a Game of Thrones, sebbene, ripeto, io ho ricominciato da qualche giorno a rileggere i libri e devo dire che lo stile di Martin non mi piacque all'epoca, adesso lo trovo più tollerabile e più scorrevole di quanto ricordassi. Forse un pochino più avanti, sono ancora al primo libro, forse un pochino più avanti si arenerà e avrò la medesima esperienza di trama, di scrittura stucchevole, però la trama, i concetti espressi sono estremamente interessanti. Qui invece tutte quelle cose che erano state portate dalle pagine cartacee allo schermo sono state dimenticate e il fanservice, le battute a dir poco scontate, l'ironia continua che permea questa stagione sta rovinando quel poco di trama che avevano a disposizione, perché ripeto, ci sono enormi differenze, cioè Beric doveva morire per riportare in vita Lady Stoneheart, ci sono ad esempio il massacro di Walder Frey, di tutta la famiglia da parte di Arya, in realtà non avviene perché Lady Stoneheart uccide, ed è la sua missione di Lady Stoneheart, cioè Catelyn Stark riportata in vita dal sacrificio di Beric, è la sua missione uccidere tutti coloro che sono stati coinvolti nelle Nozze Rosse. Quindi ci sono dei cambiamenti di trama enormi, anche Melisandre, Stannis, eccetera, ci sono dei cambiamenti di trama enormi e loro la stanno gestendo malissimo, malissimo. Ultimissima perplessità che vorrei esplicitare riguarda Bran, perché Bran, qualcuno mi ha detto, beh no, lui non è che non ha fatto niente, quando lui si è incarnato, metaforicamente parlando, nei corvi, è andato, diciamo, a farsi vedere dal Re della Notte per condurlo nella trappola. Rimane il concetto delirante di mettere una trappola nel luogo che vuoi difendere, e lo ripeto, negli articoli che postai nel precedente podcast ci sono le descrizioni accurate di due professori e un veterano dell'Afghanistan che, cioè, sottolineano quanto sia assolutamente idiota mettere il diversivo all'interno della zona che vuoi difendere. Però tralasciamo quello. Ma anche qui c'è una contraddizione, perché Bran in più di un'occasione ha detto: io sono stato toccato, lui mi vede, ho le visioni, ho gli incubi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è una spiegazione che uno si dà per giustificare l'ingiustificabile di una scena inutile e vergognosa, perché, ve lo dico io, ma ve l'ho detto in 3 episodi, Bran ha esaurito qualsiasi sua importanza, qualsiasi suo impatto sulla trama, quindi adesso, per fargli fare una scena e non lasciarlo con gli occhi cappottati tutta la puntata, devono dare questa giustificazione. Ma il modo in cui hanno gestito la pseudo-onniscienza e le doti mistiche, ma lo ribadisco per l'ennesima volta, qui la magia, il misticismo e il mistero sono stati esplosi dagli sceneggiatori, non ve ne è più traccia. Il modo in cui hanno gestito le capacità di Bran è pessimo, vergognoso, ridicolo, inutile. Un personaggio che è perfettamente inutile adesso, cioè non serve a niente, perché la sua, ritorno a dire di prima, la sua raison d'être era quella di incarnare, diciamo, il corvo a tre occhi e aiutare in questa battaglia millenaria contro gli estranei, che sono esplosi così. Ultimissima cosa prima di chiudere, sono emersi degli screenshot, non so se sono affidabili o meno online, del cielo di Westeros con 4 draghi, se non sbaglio, calcolando che 2 sono passati a miglior vita. Io non so, probabilmente io ragiono sempre da persona con un pochino più di cognizione per quanto riguarda le meccaniche televisive e cinematografiche. O si tratta di un errore, o semplicemente sono delle scene, magari dei trailer che sono state montate ad arte, ma quella scena lì non c'è, magari sono uccelli a distanza, non lo so. Io non ho visto le immagini perché ho scartato immediatamente l'ipotesi di questa presenza di draghi, perché comunque se fanno una cosa del genere è sul serio da farsi brillare davanti all'HBO, perché comunque i draghi sono ritenuti creature millenarie, creature magiche, storiche, impossibili da domare. Soltanto Daenerys ha questo potere, ne è rimasto uno solo. Quindi secondo me quell'immagine, io almeno razionalmente parlando, mi auguro che sia soltanto un rimasuglio magari di un montaggio precedente, un qualcosa che andava in un trailer, eccetera. Non credo che abbia nessuna valenza di trama, se di trama si può parlare. Allora, io vi ringrazio nuovamente tutti coloro che hanno ascoltato i miei podcast precedenti, ringrazio chi ascolterà questo podcast. Domani ci sarà l'episodio e mi sbrigherò a guardarlo le solite 2 consuete volte per apprenderlo nei minimi dettagli, e farò una mia reazione, la mia spiegazione, sperando che questa volta ci siano più note positive che negative, sebbene i presupposti appunto impostati da questa stagione e dalle 2 precedenti siano tutt'altro che incoraggianti. Quindi buona domenica a tutti, buona festa della mamma a tutte le mamme, e vi auguro e mi auguro che le prossime 2 puntate saranno, diciamo, più degne della nostra attenzione, più degne della nostra passione di spettatori. Ciao a tutti e buona serata!